tua bocca. Forse in Africa che importa. Tu dimmi quando, quando, dove sono le tue mani, il tuo naso, verso un giorno disperato. Ed io sete, ho sete ancora, ho sete ancora. Tu dimmi quando, quando, non guardarmi adesso amore, sono stanco, perché penso al futuro. Tu dimmi quando, quando, siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso. O sete ancora, o sete ancora. E vivrò tutto il giorno per vederti andar via. Fra i ricordi e questa strana pazzia, e il paradiso che forse esiste, chi vuole un figlio non esiste. Sta per nascere un sorriso. E io sete, o sete ancora, o sete ancora. E vivrò, sì vivrò, tutto il giorno per vederti andar via. Oh, oh, fra i ricordi e questa strana pazzia, che forse esiste, chi vuole un figlio non esiste. Oh no, no, no. Lo sai che non ti avrò sul tuo viso. Sta per nascere un sorriso. Io sete, sete ancora, sete ancora.